sempre D.O.G.O. Originale M.I. La G, la U, la E. Rap capo, non confonderti, tu non sei me. Sempre dogo fieri, non mi fanno l'orologio come a Bobo fieri. Era il tuo concerto, no, sì era il tuo concerto. Io ti ho visto con gli sbirri che ti scortano. Lingo fresco, hablo, spingo fino a che non sbarco come Esco Pablo. Non farti il viaggio come in LSD. Sai che i miei fanno più metallo che gli ACDC. Non credo alle cazzate per lanciare il tuo CD. Abbasso il finestrino per lanciare il tuo CD. M.I. è sull'Atlante. Sangue sul tuo Prada, tu sei niente nada come la cantante. E resta sulle tue, conosco chi per una riga o due ti ruba in casa come a Ligabue. Vado in giro con la sbirra più bella che c'è. Tu c'hai la scimmia, io c'ho un gorilla, ma già la che più grossa di Godzilla, la gente strilla, io non so chi sei te. Chi salta la fila, conta la pila, è sempre Dogo Gang. Zio, parlo di DNA, pietà, non ne ha. Formato un sale da ballo, come MDMA. Originale rap zarro, sì. Conta denaro, sì. Che ti fa piangere in video come denaro. Le porti in giro col bolide, chiavi in mano, sì. Ci provi tutto il giorno e finisce che chiavi in mano. Fai ricco senza milioni, fai brutto senza coglioni. E le tue fan fra ancora non hanno le mestruazioni. Zio, bomba Dio, Gio, la collana crocifisso, misura del Cristo di Rio. E fra, mai stato il primo della classe, ma il primo della mia classe a guidare la classe A, sì. E nei quartieri la gang è un culto, è il disco. Ha raddoppiato le copie dopo l'indulto. Per questo entrate sfoggiando un bel sorrisone, uscite con fin in faccia come col cortisone. Vado in giro con la sbirra più bella che c'è. Tu c'hai la scimmia, io c'ho un gorilla, ma già la che più grossa di Godzilla, la gente strilla, io non so chi sei te. Chi salta la fila, conta la pila, è sempre Dogo Gang. La pila è sempre Dogo Gang.